dipendenti della vita e ti ha fatto tutti quei giorni. Allora c'era un errore, tutti forse la vita e ti è l'amore. Io